Ora? C'è qualcuno su 10? Ora? Ora? C'è qualcuno su 10? Oggi nulla, Robè. Non è entrato nessuno. Tutti in fede adesso. Probabile. Ti ricordi il radio Wow che mi hai segnalato, il ricevitore? Allora, ne esiste uno identico di aspetto che ha l'SSB e costa 79,90 da eBay, da Amazon. E ha un altro nome, tipo X-Data, no? 808, però caso strano lo vende la radiowow.it tramite Amazon. Quello lo prendo. Allora, prendere al volo è identico al mio, c'ho anche la prova, se tu vai su YouTube c'è la prova di un radioamatore. È eccellente perché c'ha anche le bande laterali. E è identico al mio, proprio tu lo vedi, è sputato al mio perché cambia solo la marca. Traxdata, come si chiama adesso, non me lo ricordo neanche, c'ha la scritta in arancione, è identico al mio, infatti ho guardato una prova e ho detto ma questo è il preciso al mio, poi ho guardato in più c'ha solo le bande laterali, è identico, ma c'ha una ricezione, guarda io sono rimasto a bocca aperta, c'ha il DSP, tu devi vedere come ieri, per dire, ieri notte io vi stavo ascoltando, con l'antennino suo dentro, sentivo a tutti, dentro la camera da letto, mica c'è il metracionetto armato e tutto, con quell'antennino riuscivo a sentire tutti, la radio tua comunque era la più forte di tutti. Vabbè, tu sei vicino, c'era coso, ma che si chiama? Antonio Bombo, tutti ascoltavo, con una lampadina che tu ti metti a ridere. Lega. Sì, è l'apparecchio che aspettavo, perché ti spiego, vabbè, c'è stato un calo di passione anche per la ricezione delle HF da parte mia, no? Francamente di spendere 140 euro per il Texun 6,60 non l'avrei mai spese, però quello costa ben 60 euro in meno, poi dipende da chi lo compri, il Texun lo trovi anche a 120 dall'Italia, proprio venditore italiano, quindi garanzie e tutto, però quello è un prezzo mai visto, naturalmente puoi collegare l'antenna esterna, quindi è, per me è ottimale quello. Allora, io ti sto dicendo, ce l'ho e ti posso garantire, sono rimasto a bocca aperta dalla quantità, come riceve la ricezione, poi c'ha in più l'indicatore di livello del segnale in decibel, t'ha dato in decibel e rapporto segnale disturbo, c'ha doppio di coso, indicatore c'ha, ma c'ha una ricezione spaventosa, se tu poi ti ascolti le broadcasting con la cuffia, diciamo, di qualità, ti rimane a bocca aperta la qualità del suono di quella roba, e più in dotazione ti danno l'antenna affilare, sarà 3-4 metri di antenna, e ti posso dire c'ha di buono rispetto al Texun, che secondo me è molto meglio del Texun, c'ha gli accumulatori a litio, per cui tu lo ricarichi con quelli a litio, come un cellulare, c'ha una bella autonomia perché dura tante ore, io la notte me lo tengo sempre acceso, quando non riesco a dormire la notte poi mi sveglio e me lo accendo, sta ore e ore acceso, e ti posso dire non mi ha mai lasciato a piedi, c'ha una varia di funzioni, facili di sintonia, ti posso garantire è un grandissimo ricevitore, molto molto di più di quanto mi aspettassi in ricezione. Sì, guarda, l'ho visto l'altro giorno per puro caso, no? Ho detto ma questo assomiglia a quello che mi aveva segnato Roberto, poi vado a vedere il venditore ed è proprio quello, radiwow.it il venditore, tramite Amazon, capito? Sì, ho visto anche quel tipo di batteria, sembrano quelle batterie che metti in quelle torce tattiche che vendono i cinesi, no? Quelle stilone grosse, azzurre, verdi, dipende dal colore. Io prima il Texun lo usavo con le batterie stilo, due stilo ricaricabili da 2003, quindi ho sempre lavorato con quelle ricaricabili comunque con quegli apparecchi. Comunque sì, quello per il prezzo, non solo, ma quando fanno l'offerta lampo ti tolgono anche 10 euro, cioè anziché 80 euro lo paghi 70 euro, quello è da prendere, a Natale mi regalo quello. Almeno posso ricevere i radioamatori, perché a me delle radio M no, non mi interessa, però a me serve per la SSB, proprio per i radioamatori in SSB. Ti sto dicendo, è veramente un bellissimo ricevitore, la gente lo prende come giocattolo, però ti posso garantire, io prima di comprarlo ho visto tutte le recensioni e sono rimasto un po' così, ho detto dai vediamo, ci butto, io l'ho pagato mi pare 69 euro, c'era lo sconto, adesso ti prendo e sono diminuiti, quello che stai dicendo tu costava intorno ai 130, una cosa cosa del genere, non c'ha gli accumulatori classici come batterie, tieni presente, c'ha la scatolettina piccolina in litio, piccolina piccolina, una scatolettina con gli accumulatori interni come un cellulare, le vecchie batterie dei vecchi cellulari, ti ricordi che erano quadrati dei parallelepipedi, così non ha. Il Texo invece deve mettere le pile con le classiche pile accumulatori, dai, con le nickel cadmio, questo è al litio invece. Robè, però rispetto al tuo, questo ha un accumulatore tondo e lungo, sembra una specie di maxi stilo, è una sigla chiamata 1855, una cosa del genere, è la stessa che mettono nelle torce tattiche, è diverso dal tuo, tu ce l'hai piatta, tipo cellulare. Allora non sta dicendo il modello che dico io, cioè è identico al mio, proprio uguale, sputtato identico, e c'ha l'attacco USB, io infatti me lo carico con l'alimentatore USB, quello del cellulare utilizzo, quello a 3,5 volt, è identico al mio, proprio sputtato con gli stessi tasti, l'SSB c'ha la doppia funzione per la banda laterale, e boh, forse tu stai dicendo un altro modello del mio, io quello che sto dicendo io è identico, preciso identico, con la, infatti ho detto, il mio lo fa anche l'oxidata o cosa del genere, invece no, c'ha solo le bande laterali in più. Sì, allora il modello è XH data, tutto attaccato, XH data, poi D808, 79,98 da Amazon. Però se tu guardi le foto, vediamo se c'è nelle foto. Ah, non te lo fanno vedere dalle foto, io l'ho cercato al di fuori di Amazon, questo proprio ha la batteria a siluretto, capito? Allora non è uguale al mio, quello che dico uguale al mio è identico, proprio le stesse dimensioni e tutto, c'è la recensione su YouTube, un radioamatore che lui prova tutte le radio, PMR, ti spiega un po' quando devi fare una stazione, come devi iniziare, eccetera, un tipo con la barba, con gli occhiali, un abbastanza giovane, ci avrà preso una quarantina d'anni, e ha fatto la prova di questo coso, l'ha paragonato al Texum, però ha detto meglio del Texum perché c'ha questi accumulatori così, più maleggevole, cioè, perché hanno più o meno le stesse caratteristiche, però questo costa di meno del Texum, infatti lui ha detto rispetto al Texum qualità prezzo è superiore. Ah Robè, aspetta che mi sta venendo un dubbio, a meno che per i mercati esteri non abbia quel tipo di batteria e per il mercato italiano non abbia quella quadrata rettangolare come quella che hai tu. Sì, quel ragazzo, aspetta come si chiama, mi sono iscritto, ho capito chi è, sì, e l'ha fatta pochi giorni fa, ha fatto sia del 660 e sia di questo X data o come si chiama. E infatti l'ho seguita bene, poi ho visto anche altri video in inglese e con i sottotitoli bene o male si capisce meglio, dai. No, ma il video di prova è proprio in italiano, lo fa su cose in italiano, ti spiega tutte le funzioni, eccetera, è italiano, dura un quarto d'ora il video. Sì, oh cacchio, aspetta sto schifo. Sì, radiatore Italia Uniform 2 IKE, eccolo qua. Adesso voglio vedere il particolare della batteria, ma è messo. Comunque dovrebbe essere quello lì, No, se è quello del radiatore che ho visto io, il tipo con la barba e con gli occhiali un po' cicciottello, è identico al mio, c'ha la batteria, infatti lui spiega proprio questo, rispetto al Texun non hai gli accumulatori, questo c'ha la batteria al litio, per cui l'autonomia è superiore e lo ricarichi come un cellulare. C'ha un'autonomia enorme infatti, quelle a nickel cadmio, quelle classiche da 1,25 volt, quelle hanno poca autonomia, questa invece c'ha 3,5 volt effettivi. Sì, l'ho rimesso, è lui, è quel radiatore lì. Sì. Aspettami, la sta aprendomi. Ecco, non riesce a aprirlo. Se guardi, guarda che c'è serigrafatto, una batteria litio lunga. Guarda bene Robè. Sembra una mega stilo. Porca miseria, è che non la fa vedere aperta. No, allora se è lui che lo fa direttamente non è quello che sto dicendo io, perché quello che sto dicendo io c'è quel tipo con gli occhiali e la barba che sta camminando in un parco e sta parlando di tutte queste cose e poi dice, rilascio la recensione a un mio amico che ce l'ha questa apparecchio e passa la recensione, lo fa un'altra persona. Eia. Comunque guarda la sigla è quella, Italia India Uniform 2 IKE, sì, credo, è lui, dalla descrizione è lui. Anzi, grazie a Dio che c'è un italiano che fa recensioni, sennò tutta roba estera. E poi ha fatto le prove dei PMR, ti stava spiegando tutto il discorso della legge, legislazione, eccetera, eccetera. Adesso facciamo un attimo di bianco, se qualcuno vuole entrare. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare avanti. L'unica cosa che non ho visto è l'attenuatore, perché nel Texun avevo l'attenuatore alle vetta, aveva due o tre posizioni. Io non vorrei che questo andasse in saturazione non avendo attenuatore. E poi mi interessava anche quell'antenna lupo magnetica cinese, di cui non ricordo il modello, roba economica, 40 euro ce l'hai, ti danno l'emettatore, il circuitino, poi la... il cerchietto, no? Che poi serve la vera antenna. Credo che ci abbia finito, non è attenuatore almeno il mio. Ti hai presente con Claudio che siamo vicinissimi, che c'è un segnale spaventoso, con l'antenna sollevata, perché lui lo ascolta anche senza antenna, non saturava assolutamente, c'ha dei filtri, posso dire è una grandissima ricevitore, c'ha il DSP, poi c'ha il sistema digitale per la soppressione dei disturbi, ha ascoltato una stazione che, se ti dico, mi sono rimasto scioccato, non è possibile, se riesco a prendere questa stazione, magari era una giornata favorevole, non lo so. Però io con la stazione l'ascolto solo con l'ICOM 7000 e con l'altro ricevitore ancora più grosso e l'antenna esterna, se no non riesco ad ascoltarla con nessuna radio. Allora, l'antenna è la MLA30 Active Loop Antenna, 40 euro da eBay. Naturalmente ha fatto capire che va messa sul tetto, cioè non è roba che puoi mettere dentro casa per prendi tanti di quei rumori, comunque che non si va da nessuna parte, però se è messa in alto, tetto, insomma un punto elevato rende, va bene, sì, quello è proprio l'apparecchio che mancava, perché è un prezzo molto ma molto appetibile rispetto ai Texun, che siamo sopra i 120 euro comunque, 130, 140, con la spedizione lo paghi 140 il Texun, da Fleco Electronic, è un po' eccessivo, infatti non avrei più spese, però quello è, lo metterò nella lista, tra la lista dei destini. Pensate però che il Texun è un po' più grande, questo è come un cellulare, cioè presente la grandezza di un cellulare un po' più spesso, un po' più alto, il doppio, di spessore è il doppio del cellulare, è di dimensioni quanto un cellulare da 5,5 pollici. Ehi, ecco qua, sì, interessante, interessante. Va bene, detto ciò, robe, io continuo a mangiare, ero a metà con la pasta. Sì, oggi non è entrato nessuno, anch'io però non avevo voglia di entrare, proprio. Oggi sono abbastanza moscio, demotivato. E quindi oggi gestirò più televisione e boh. Riprendi? Ok, dai. Allora ti lascio mangiare, dai, tanto anch'io tra poco sto uscendo, dai. Facciamo un'altra chiamata su 10, ti vuole entrare, se no rimango in ascolto e faccio altro finché non faccio ora per uscire. Niente, nulla, oggi nulla. Sì, ho visto ti danno come sempre la custodia, l'antennina a filare, forse delle cuffie, ma devo vedere bene la recensione. Okay. C'è anche l'appoggio dietro, come il Texun, c'ha quello sportellino dietro che lo apri, lo puoi poggiare di tre quarti, no, capito, non un coricato. Inclinato a 45 gradi più o meno, molto molto carino, interessante. Poi se la qualità sicuramente è quella del tuo, è tanto di guadagnato. Scusa Marco, sono al telefono, dai, ci sentiamo con calma, ciao ciao. Ciao Robè, ciao. Marco. Profetta. Ciao carissimo, ho acceso al volo adesso. Senti un po', ho dovuto accendere l'antenna stamattina perché il vento dei giorni scorsi mi aveva piegato il radialino. Niente, l'ho rimesso a su com'era e volevo giusto un controllino se era tutto normale. 9 più 25 già, sembrerebbe tutto a posto. Se sono a posto le stazionarie non c'è problema alcuno. Anche a te ha fatto danno, porca miseria. Anche al doppio room qualcosina gli ha fatto. Caspita, sembra un venticello, non era la tromba d'aria del 2008, eppure ne ha fatti danni. Sì, ma mi ha piegato il radialino sottile, era leggermente piegato, fai tipo 25 gradi, 30 gradi me l'ha piegato. Niente, stamattina ho pulito tutto, l'ho rimesso, l'ho riaddrizzato, ho rimesso tutto a posto e niente, volevo sapere. No, le stazionarie sono 1, neanche 1 e 2 arrivano, dai. E quindi non ne hai, c'ha le stesse che ho io probabilmente. Sì, sì, non c'è problema alcuno già. Io ero a metà della pasta, è entrato Roberto, gli ho voluto dire questa cosa di questo ricevitorino che mi interessa e adesso proseguo. Oggi non vedo un'anima, Vabbè, io ho proprio acceso al volo, ti ho beccato mentre stavi, cioè, mentre stavi salutando a Roberto, no, sono entrato giusto così al volo per vedere se era tutto a posto, poi anche io sto finendo di fare una cosa al PC e quindi mi stacco anch'io. Ok, dai, buon appetito e buona e buona serata, grazie per il controllo. Sì, già, ci sentiamo. Anche io giro, sì, abbastanza giù, abbastanza spallato, quindi anche io non sono entrato. Ci sentiamo già, ciao, buona serata. Buona serata anche a te, dai, alle prossime. Sono rientrato, chi c'è? 110, c'è qualcuno? Ora, c'è qualcuno su 10? Canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione canale 10. Chi è? Avanti, chi vuole entrare? Attenzione 10. Chi è avanti? Chi sei? Chi è avanti? Guarda, non stai uscendo. Chi è avanti? Chi è che non sta uscendo di radio? Mi senti? Ma tu vedi che non stavo uscendo là? Non avevo un microfono, dammi il tempo ad attaccare il microfono, sto provando una radio a un amico. Mezzogiorno. Ma la radio è bella, che radio è? La gemella di quella che ho io, dai. Ah, bella, bella, col 60, sì. Eia, col 60. Oh, sta uscendo bene, la radio è forte. Ma poco fa c'erano altri segnali, vedevo Santiago 9, 9 e 20, c'è qualcuno che fischiava, ho detto, chissà che è. Ah, boh. Guarda che ho aumentato leggermente il Mickey Gain, aspetta un attimino, ecco qua. Va bene, ma non c'è più qua, ora, guarda, sta uscendo adesso? Sì, è bella anche la radio, sì, sta uscendo, anche a momenti si abbassava di radio, ma adesso è buono. Ehi, per quello che me l'ha data devo aprirla, adesso non ho voglia, sto solo controllando. Adesso più tardi la apro, è tutta da pulire, da vedere, fare un paio di tarature dello smitter perché sei 9 più 30. Io addirittura. Allora, 9 più 30 sì. Ah, tu sei 9 più 60. Ovviamente, quant'è? Ora. La radio è bella però, bella piena, mi piace. Bella piena, ci metto le cuffie a vedere. No, ti ascolto perfettamente, bella corposa. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, c'era un paio di segnali, qualcuno andava portante. Avanti su 10 che vuole entrare, dai. Ma quando c'erano questi segnali? Adesso che stavo parlando io? No, poco fa, prima, 5 minuti prima. C'era uno 9 più 20, poi c'era 9, poi si abbassava. O qualcuno sta facendo prove da 7, 9, 9 e 20. Ho capito, ho capito. Mamma mia che radio brutta. Ma che cazzo fai a dirmi che la radio è bella? Roba. Mamma mia. Che brutta radio. Sei un bel forte, amplificato, mi sento tutte le voci che c'è intorno. Allora la radio è bella, a me piace. Sono in cuffia e fa cagare, cazzo, fa cagare. È cupa, è brutta. Ti attacco il mio a vedere come esce. È brutta. Questa ci devo lavorare, però siccome la deve vendere, a me non me ne fotte nulla. Va bene così e la lasciamo così. Basta magari un pochettino il livello, però non è distorta la voce, è bella forte. A me piace, sembra Alberto Lupo, diciamo, ti dà un po' il vocione più grosso, però è bella, a me piace. Ma a me non piace però. A te piace Robè, ma a me no, cosa vuoi ti dica, non... è una cosa che non mi va. Ora. Vabbè, non sta funzionando manco il processore qua, te. Ora. Qua, così è senza processore, così è senza processore e così è col processore. Boh. Non spingi un cazzo. Buonasera, sono 40 anni con questa radio e non è che le conosco oggi. C'è da fare un po' di regolazioni, però siccome, ti ripeto, la deve vendere, a lui interessa che la radio sia a posto. In AM esce, passa in FM, vediamo. Aspetta, aspetta. Sì, Claudio. Segnale, non ci toccato nulla. Sì, 9.35, cacchio, le 9.60. Ora. Scusa, le provo a parlare, Cla, ci avevo fermato, le provo a parlare. Scusa, ci avevo fermato, la mamma FM mi ha lasciato, ha trovato l'inserito, scusami. Vedi, vedi di B, avevi perso, cacchio. Ehi, vabbè, tutta la rivedere questa radio, vabbè, è tutta la rivedere, dai. Non ha neanche nulla, è tutto da rivedere. Vabbè, non lo so, io riferisco al proprietario, poi veda lui quello che vuole fare. E come mi ascolta a me in banda laterale? Tutto spostato, tutto da centrare, tutto da riallineare, tutta... è un ben casinata, dai. È tutto da riallineare, tutto da rivedere. Ok, dai, dammi un attimo di bianco e ci sentiamo dopo. No, vabbè, tanto devo uscire adesso, sto andando a casa di mio padre, che c'è mia figlia, ecco, se mangiamo lì probabilmente. Dai, ci sentiamo domani, dai, Cla. Quelle istruzioni ce l'ho in inglese, Cla, ma non si vede a nulla. Oh, di questa radio ce l'hai in inglese? Ce la deve vendere, cosa? Non manco chi ce va. Ma sono fotocopiate, Cla. Non si possono rifotocopiare? Sì, si possono rifotocopiare, certo. Vabbè, dai, vediamo, ne parliamo di persona, vai tranquillo adesso. Grazie del controllo, Roberto, almeno mi sono fatto un'idea di questa radio e lo riferisco al proprietario. Ehi, non c'è problema, dai, rimango due minutini, faccio una chiamata e poi vado via, che vado a mangiare da casa di mio padre. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ho sentito un rumore comunque, qua un innesco, un disturbo là, sai ragazzi cosa mi sta disturbando? Io mi sono appena seduto e sto guardando le mail nel computer per quello che ce l'ho acceso. Ehi, io tanto troppo vado a prendermi il tram per salirmene a casa, là. Nel caso senta qualcuno dopo, ci sentiamo dopo da Domo. Va bene, ciao. Ciao Muccolo, ciao. Bombolino. Oi, Claudio, buonasera. No, sto provando la radio di Danilo. A me non mi piace in AM. Come va? Non è male. Non è male, ti dico. Danilo. Ehi, Danilo. Ma guarda, per vedere, per fare la differenza, insomma la comparazione è con la mia, ma molto, a me non piace, molto giù come radio. È normale, normale, capito? Qui mi spostate in banda laterale, FM è un po' gracchiante, c'è una persona con la strumentazione per poterle dare una lineatina, io ma da poco fa adesso le metto la busta e domani mattina gliela restituisco, io non posso fare niente, non è compito mio, non sono professionista in queste cose, io non ne ho strumenti. Vabbè, però tutto sommato non è male, non è da buttare via, va bene per me. Lo so, va bene, però quando tu la vendi, siccome la deve vendere, quando tu la vendi e la dai che non è allineata, ti dicono cosa, capito? Va allineata, ma la laterale è spostata di un bel, ma di un bel un bel. Cazzo, c'ho il Michigan in a manetta, cosa? Cazzo, lo tengo a uno, io lo Michigan, te lo tengo a 40, io ti a manetta. È normale come radio, capito? Vabbè, magari non è tirata come la tua, però vabbè, cioè... E voi vuole portata da qualcuno e fatta allineare, io non so chi le fa questi lavori. E vabbè, lui già lo sa, deve vedere lui cosa vuole fare, io non posso fare niente perché non ho strumenti e poi non è il lavoro mio, quindi niente. Porta, ma faccio le comparazioni con la mia, così ti dico prima di venderla che cosa c'è da fare. È fuori frequenza, di un bel, non è allineata in banda laterale. La M è molto chiusa, secondo me. Io c'ho Mickey Gay al massimo, sono in cuffia, ma non sta spingendo come deve spingere. Guarda, qui c'è un processore, e così è senza processore. È quasi uguale alla modulazione, così è col processore. No. Già cambia col processore, però diciamo che sicuramente è normale. È una radio che sta andando nel normale, non sta andando come deve andare, capito? Vabbè, tu la mia già l'hai sentita, è una traguba, però ti ripeto, questa è normale, è nuova nuova, è nuovissima, veramente molto bella, però è normale, vuole data a una persona che possa fare l'allineamento o possa fare tutte queste cose, capito? Va bene, dai, tanto aspetta che la stacco, dai, stacco la mia, senti la differenza che c'è. E capa. Chi sa canto un ibu? Ah, buh, aspetta che attacco la mia, dai. Capa. Questa è la mia. Un'altra cosa, Che è una bizza, un'altra cosa. Chi sa bomba, gara. Tutta quanta un altro mondo, un altro pianeta, non lo lascia perdere, è completamente un altro pianeta, capito? Un altro pianeta, ma con i fatti ha ridato il carradio. No, è normale, cioè i fatti normali, capito? Normale, non da più di 30 watt, quindi per quello che in banda laterale spinge poco. Sì, allora, non era mai se gozzano. E poi anche leggermente sorda, non mi piace il ricevitore, non lo so perché, non lo so. È un po' strana anche come riceve, non lo so, vabbè. Non mi interessa, aspetta l'attacco del tutto. Sono già fatta, Cosa? Qualcuno deve vuole entrare, avanti. Non ero io che ho calcato il BTT, scusa. Aspetta che l'attacco, mi sta già girando le balle. chi c'è il figlio dei ragazzi del quel cazzo di filo, la massa e te vecchia nei cieco allora da cubgata a 220 le volte cubbia ah no la aspetta ecco qua però oh. Hola ma che va bene non c'è problema tu ottimo per la truppa hai zitto Tommy. Cosa? A Bari da vedere. Cazzo ci funziona, ma te c'è tanto. No, è qui 19:20 in città, cioè sono 5 punti. Capito? Non è che... Quindi, per me va benissimo, alla grande. Allora andava e dai, e poi non satura come quello là. No, no, assolutamente. Allora è buono, vabbè, quello là un pochettino così, però questo già va bene. Alla grande va bene, la vece va bene. Papa, ah, già andava. Ammazza, tieni varia. Sì. Mi fa zimare la mano, mi ci sono occupato dalla rampa, rimane. Porca miseria ladra, ma ti sei fatto male? Mi sono un pochettino fatto male, dai. Sono vicino correndo, ti sono uscito dal dolore, cazzo, stavo impazzendo. Praticamente ci sono sceso, meno male che ho buttato la mano, se no zero vado da capo a terra. Non c'è niente. Vabbè. Attenti al lavoro, lavoro è un casino, è un momento farci male. Papà, ragazzo, vuoi fare? No, il problema è che con quel cavolo di mascherina mi si sono affannati i piccitti. No, non ci potevo più, un cazzo di soccuparato, come uno scemo, manca un pochettino colpa mia, Non si è corretto, ma lui stava cadendo lo stesso, si sono appannati gli occhiali e stava cadendo lo stesso, un casino. La carità di Dio, E c'è lì, allora. Anda giù Bucciuita, noi cacci più nulla in oggi. Quella là mi dava la verità, mi dava un pochettino di stazionario pure, questa non è da. L'ho tarata alla perfezione, bella gà. Sto provando, non scalda niente. Sì, già va bene. Già va bene tu, alla grande, voglio che va bene. Io ho provato, ho attaccato il suo bypass, ma quel rosmetro secondo me non va bene. Cazzo, dici tutta la fondo scala, non rigurava più, non fa zia. L'ho messo scioccato, poi si è ripreso. Sì, addirittura. No, già va bene comunque, stai andando alla grande. Favola. Papa, sei scioccato. No, praticamente ho fatto quel bypass là che mi hai detto tu. Ho preso, ho messo per vedere quanti watt dava. Ah, boh, secondo me. Oh, è un buon strumento, ha sempre misurato bene. Con gli intecchi piccolini sono. Ha sempre misurato bene. Però il giorno la cotone scioccata, con il sub 150 grammi da evata. Però adesso si è rimesso a posto, dopo un po' si è rimesso a posto. Cioè. Perché l'altro con il 150 è più forte del 747, scusa, è più forte, non è, non ti dà la modulazione se non ha l'ingresso giusto, però è più forte, da più forte il 150 al 747, provativo, capito, da quello che sto dicendo, quello porta che il 747 aumenta di qualche cosettina e quell'aumento di watt che c'è, non è un problema quello. Se 150 un poco di più mi pare che andia, però magari mangia un pochettino la radio, un po' strano questo invece non mangia la radio e va bene. Ma sai che attacco l'Inter? Attacco l'Inter che me l'hanno portato e così faccio due prove con quello lì, vediamo. Ok. Senti, chi è? Che voleva entrare, va? Avanti. Lo sento? Sto avanti. Ho capito. Ho detto avanti. Sono io. 1, 2, 3, 4, 5. Mamma mia che radio verga. Aspetta che abbasso leggermente. Che radio brutta che è. Per carità. Vediamo un pochino così. 1, 2, 3, 4, 5. Prova. Bene, va così. No, è fini vini, non mi piace. Un bel brutto, no? Sì. Ah, apparecchio è. Quell'Intec con il... L'Intec con... col coso, con il... con l'MB più 5. Cambia il tono, a vedere. Sto guardando. 1, 2, 3, 4, 5. Prova radio, prova. Meglio di niente, ho detto. L'importante è che funzioni. Adesso devo regolare il tono, però 1, 2, 3, 4, 5, vediamo un po' così, ecco qua. Così meglio va il tono, tu. No, non va bene. Cosa? Cantò, cazzo, sei tutto saturo, gatto. Sì, chi c'ha la radio è strana, esista un attimo. Aspetta che attacco l'altro. Cantò, non c'è bisogno di stare attaccato, sacca. 5, vediamo un pochino, vediamo un po' senza nulla, vediamo un po', ora 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, prova, ma aspetta che abbassiamo la potenza qua, 1, 2, 3, 4, potisce power, forse questo, vediamo un po', 1, 2, 3, ora prova, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, prova. Stava l'ho visto che stava mescando. Fatto innescare io. RB tolto, questo tolto. No, mi interessa sapere 1, 2, 3, 4, 5 prova radio. 1, 2, 3, 4 prova radio. Allora, mi interessa sapere. Allora, mettiamo così questo, guarda. 1, 2, 3, 4. Mi devi dire, Anto, se va bene come tonalità, dai, se può andare. Può andare. Può andare, no? Vabbè, dai, allora lasciamo stare così, no? Non è che sto lì a girarmi le balle, aspetta che abbasso leggermente il microfono, ecco qua, dai, lasciamo stare così. Se va bene così, lo lasciamo così, se no ce lo piglio le luci. Ora, 1, 2, 3, prova, questo non serve a niente. Il tono non serve a niente. Vediamo un po', lo facciamo così, dai. Così è meglio di nulla. Bisogna provare qualche microfono per adattarle. Magari un altro microfono si adatta meglio. Antonio, io non voglio microfoni da palmo, capito? Preferisco, intanto sono radio vintage, come escono. Io mi sto ascoltando, vediamo un pochino. Allora, il tono è tutto a 10. Il tono a 10, guarda Anto se va meglio così il tono. Così a 10 o così a 0? Così a 0 è brutto, mamma mia. Aspetta che lo regoliamo, aspetta. Guarda, così a 5 bene va il tono. A me mi varia meglio a 0. Anto, io a 0 mi ascolto le brutte, così sono a 5 e così a 0. Mamma mia, quanto è brutta, cazzo. Così è brutta Anto. Lascia perdere che è migliore. Non so come ti ascolti tu, ma qua è meglio. Col tono a 0. Aspetta che lo mettiamo a 2 allora, so. Lo mettiamo a 2 il tono, così meglio va. Aspetta, prendo il telefono, te lo faccio sentire, mettilo a 0, te lo posso intendere, che non è come stai dicendo tu. Allora. qua, così fai così a zero tu, così a zero, e poi ti faccio un passaggio a 5 a vedere, col tono 5 a vedere come va, capito? Vedi un pochino, vai. Stai registrando, guarda così. Beh, fammi pigliare un telefono un attimino. Allora, adesso ci siamo. Riprova, ce l'ho in tasca. A zero e poi. Ok, ecco qua. Adesso sto registrando, vai. Allora, così c'è il tono a zero. Il tono è tutto a zero, Anto. A zero completamente. Poi ti faccio un altro passaggio col tono a 5, vediamo un pochino se va meglio, ok? Va clara. A 5? Allora, questo invece è il passaggio col tono a 5, mi sembra un po' più larga come modulazione, non lo so. Mandameli tutte e due, dai, che voglio capire. Ma ti mando uno unico, te lo sto mandando perché almeno capisci meglio. Guarda, la differenza è notevole. Se tu adesso ascolti è notevole. Io sto registrando sempre. È notevole un bel. Adesso te lo mando. Ehi, dai, vediamo un pochino come qual è migliore, o uno o l'altro. Allora, questo cazzo di lock cos'è? Lock di X, vediamo un pochino così, forse anche meglio così, dai, va bene, aspetta che me le controllo. Raga, BG, là, a zero è una bomba, e non qui. Aspetta tu che me lo controllo. Beh, la dai, chi ha ragione? Ho ragione io o che cosa? Che di completamente un altro pianeta. Tanto ovvio, deve essere il coso, deve essere le cuffie con l'adattatore, allora, perché io ho il connettore grande, allora è quello lì. Oh, va bene, così a zero va bene, ottimo per la truppa. Una bomba di radio, sicuramente li toglie troppo non so che cosa e non va bene. Quello che dicono molti è che l'MB4 dicono va meglio, ma bisogna vedere da voi. Comunque a zero questo è perfetto. Hai ragione. Le cuffie sono, è l'adattatore delle cuffie che non va bene. È l'adattatore delle cuffie. Sì, va bene. Ora, prova. 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. Già va bene. Ottimo per la truppa, altro, dai. Cazzo, ma sta cosa è spinge parecchio. Ma più 4 lo stanno ancora facendo. Che cosa? MB4. Sì, che lo stanno facendo, voglia. Sulla ZG una vita che fa queste cose, minchia. No, va bene, fate degli ottimi microfoni, va bene veramente, alla grande. E questo è l'Inter che con MB5. Ora fa sentire a Gianni se c'era. Gianni non è entrato, sono stasera. Sì, già l'ho sentito che era in macchina, forse stava provando sicuramente la 48 in macchina. Già sento tutto io, ti preoccupare. Non è che non sempre l'ascolto, sono sempre qua e sto facendo cose. Forse magari ci è andato a portare il cane, per quello che non è in radio, capito? Comunque va bene la modulazione. Attento Flipper! Per giù che è andato Flipper! Ehi, aspetta che sono in piedi, ancora c'è una bella tibia che è anche in piedi, Sì, ha una bella tibia che è anche in piedi, riesci a vedere se mi sento con questo? Prova, ma c'è qualcuno sotto che sta chiamando? Allora, 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova radio, va bene. Cazzo se va bene, tu, alla grande, e come se va bene. Va benissimo, molto molto bene, sì. Ottimo per la truppa. E vuol dire che vuole così, sicuramente, vuol dire che vuole così. No, vuole così. Allora, così con i toni a zero, guarda. E così è con i toni a uno, quindi va bene. Però le lasciamo a zero, vai. io, se va bene. La zero davvero è allucinante, pompa, pompa, pompa. Infatti la mettiamo a zero, la lasciamo a zero, così, guarda così, ora, ora, ora, 1, 2, 3, prova, prova, prova. Ora, 1, 2, 3, prova, prova, prova, e lasciamo così, dai, la mettiamo a metà, dai, così va più che bene, ottimo per la truppa. Vai, andà bene. Ciao. Perfetto, Sì, va benissimo. Va bene, dai, ottimo lavoro, pulito e ordinato, e accoppiato, e ci avete una cosa da giamba, non c'è un banutano che bello, io non ci ho compreso questa radio, cazzo, guarda, ma non ho poco di tatti e tattini, cazzo, no, e non c'è un banutano, guarda, così è ancora meglio, guarda, ora, ora, va, così è ancora meglio, guarda, vabbè, lasciamo stare così, dai, già, non c'è problema. Ah, questo è Roger Bippi, così è. Non venne Roger Bippi, no. Ah, ecco che cosa era, cazzo. Guarda. Non ce l'è. È da Roger Bippi. Roger Bippi. Roger Bippi, ma gli è venuto l'attaccaio, ma... Perché gli hai attaccato? No, si è staccato un filo verde. Luca mi ha detto, non sapeva dove andava. Ed è del Roger Bippi. Ma glielo riattacco io, glielo so dove. L'eco, avete capito qualcosa? Cosa? L'eco, hai capito qualcosa? L'eco c'è la scheda, c'è tutto, però praticamente c'è il trimerino a zero, io non l'ho toccato, non me l'ha fatto nulla, no, gli ho detto a far casino. No, intanto non li uso io, è quanto... Non uso proprio niente, capito? Lascio stare così com'è. Mi ricordo che era anche bello come ecco. Perché ce l'ha accorto, c'è una persona quella radio. Mi pare da Graziano, guida. Pompa. Anche con l'ecco fa la grande. Ehi, vabbè, ma io usavo dato l'ecco. Vedi, con il mio vicino con le cuffie fischia di quanto è alta la modulazione, cioè vabbè. Gaffa. Vai butta, se spinge, c'è poco da fare. No, sono contento, però quel filo verde è del Roger Bippi. Cioè, Luca era preoccupato, c'è cazzo, non so dove va questo, è del Roger Bippi è quel filo. La mazza, te ne vai, vabbè, già gli attacco io domani. Chi Luca l'ha fatto? Luca Flipper, Luca Game Master. Ah, così è. Ah, ho capito. Sì, queste cose me le sto facendo fare da lui. Certo, ma fai la mano, ma lo è tu, cioè, non me la fotti nulla. Va bene, però ormai la modulazione di prima. Sicuramente, ma ora che si è caricata la batteria, no? Anche secondo me mi sembra di sì. Vabbè, la controllo ancora, comunque già va bene. No, quei cose che tipo di batteria, ma cos'era? Usata era. No, ma adesso che era nuova. Sì, vai, secondo me si è caricata la batteria in Kiwi, bisogna controllarla, controllarla col test. Ah, io ho un affare particolare dove la controllo. Tutta un'ora, se l'andando di bene. Ma il radio c'è così, devi dire il coronavirus, capito? Adesso sta andando bene. Sì, vabbè, basta, però già sta andando bene. Come basta? Basta la radio. E cappa. La batteria è andata in perdita, non ci agghissa mica a girare le balle, può capitare, può. Bisogna guardarlo con la calma, bisogna guardarlo. Sicuramente c'è un qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Va bene, dai. Ok, Anto, ora mangiare. Grazie dei controlli, dai. Sì, ok, dai, già ci sentiamo. Okay, tenga acceso, se non per nessuno. E c'è un tutto. E adesso mi conto il tuo microfono, poi vediamo un po', a dopo. Ok, ok. Macchino, dal VHF. E infatti sentivo quando era abitato da 20 anni dei cinesi che sta preoccupando di qua di banda. Alta cassetta sto usando. Non capivo questa alternata. Quella è il coso, la ventola del quadribanda, ti ho detto. L'alimentatore del quadribanda. Ho visto uno oggi, 6,50 le vuole uguale a quello mio. A me aveva detto che ne volevo troppo, cazzo, 500 euro. Questo le vuole 6,50 le vuole. Con lo scatolo è tutto uguale al mio. Mamma mia, fa un casino fa. Lo so che fa un casino, lo so, aspetta. Aspetta che te la stacco. Ecco fatto. Adesso è a posto. Oh, c'è sempre un'alternata, c'è sempre qualcosa che non va, Antonio. Sì, l'alternata già non ce la volte per comprare. È a posto, sempre malati noi ieri. Come siamo sentiti. Non mi gridi, ma va per un po' sentire io. Dove corsa. Stavo entrando, ero un po' disorientato, non avete potuto niente. Ok. Hai visto Antonella alternata? Te l'ho mandata, No, c'è fatto un caso la vetta perché stavo ascoltando la... il coso marino, capito, della TP, cioè della TP del coso. Veramente è trovato male oggi, meno male, era ora. Adesso ho sentito. Te l'ho registrato tutto il casino che fa. Perché forse quel casino che cavo di vento, la capito, discorso è quello. Invece l'altro apparato, quello che ho io, per la macchina, quello casino come fa perché è cacciato l'altro alimentatore, capito? Tutto lì. No, c'è nessuno, la porta. Sì, boh. Non lo sono, Antone. Cazzo, l'hai pigliato. Uia. Che se non ce la mangio, no? Ah, ecco. Mal di gatto hai? Appa, già mangiato, già mangiato. Meglio così, sono contento. Ho mangiato poco fa. Adesso voglio dire che devo accompagnare Giampiero presto a fare la visita di Rizzetto, quindi se muove ui mezza condanna il suo vicino, già lo so, adesso faccio nulla, la verità, cosa vuoi che ci faccia? Niente, lo so, l'unico sacrificato sei tu. Sì, già il giorno che sono sacrificato io. Poi da quando ho abitato qua in via Vallabasso, prima una zia, poi una seconda, poi mio padre, la prima padre mia madre, dopodiché adesso c'è Simona, quindi mi sono sacrificato di quello, devo di me, Ma Simona cosa c'è? Messa male, cioè, non fa bene, è vero? C'è deve essere sempre qualcuno vicino per poterla fare camminare, risposta è quella. Perché c'ha le gambe che sono quelle che sono e non si vede.